Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Abbiamo subito un problema tecnico con il nostro ospite che tra un po' vi vado presentando, appunto non abbiamo l'audio della cuffia ma adesso lo sistemiamo. Intanto presentiamo, facciamo il nostro lavoro ordinario e presentiamo il tema di cui ci occuperemo questa mattina. Per forza di cose, sempre più spesso questa trasmissione si sta trasformando in un punto di vista purtroppo privilegiato della crisi economica che stiamo attraversando, a prescindere dalla campagna che Radio 24 sta facendo, disperati mai proprio per invitare le persone in condizioni di grande difficoltà prima di prendere delle decisioni estreme a sfogarsi, a mandarci appunto le loro mail con le loro testimonianze delle condizioni in cui si trova la propria azienda e qualche volta anche la propria famiglia. Anche noi di Salva Danaio, come sapete, ci occupiamo spesso di quelle famiglie che si trovano appunto in condizioni difficili per tanti problemi, e sono tanti gli aspetti della nostra vita quotidiana da cui ci si rende conto dei morsi di questa crisi, e uno dei tanti è quello in cui ci addentriamo con molta delicatezza oggi durante la puntata appunto di Salva Danaio. Parliamo dell'indebitamento delle famiglie italiane che, come dimostra uno studio curato dalle Sole 24 Ore insieme ad Unirec, l'Unione Nazionale delle Imprese di Recupero Crediti, questa inchiesta è apparsa ieri sulle Sole 24 Ore, sono sempre più in difficoltà e fanno fatica ad onorare i propri debiti, e non solo le rate del mutuo e della macchina o la restituzione di un finanziamento ottenuto per l'acquisto di un bene di consumo. Diventa per molti difficile anche pagare la bolletta della luce, del gas, del telefono. Una situazione di impossibilità imprevista fino a qualche tempo prima, dovuta ad esempio alla perdita di un posto di lavoro, alle tasse sempre più pesanti, ai prezzi in continuo aumento. Questa mattina andremo ad analizzare queste cifre, ma vogliamo anche capire cosa succede quando una famiglia non riesce più a pagare e smette di pagare perché non ha altra scelta i propri debiti. Cercheremo di capire il ruolo delle agenzie di recupero o degli uffici di recupero crediti nelle finanziarie, oggi ne abbiamo una, incaricate proprio di rintracciare chi deve saldare un pagamento e prevedere alla risoluzione di questa insolvenza. E capiremo anche come funzionano, come comportarsi in questi casi e in un mondo che si è popolato anche di altri soggetti, le cosiddette debt agency. Poi vi tradurrò anche con un addetto ai lavori questo termine, le agenzie di riorganizzazione del debito della famiglia, possiamo un po' definirla in questo modo. Sono proprio dei soggetti nuovi che si incaricano di riorganizzare il debito di un soggetto in difficoltà. Sono delle organizzazioni molto sviluppate, come sempre nel mondo americano e nel mondo anglosassone, da qualche anno si sono affacciate su questo mercato, ma già hanno assunto appunto un comportamento che non piace molto, soprattutto alle associazioni dei consumatori che stanno vigilando attentamente sul comportamento di queste figure. Noi peraltro abbiamo avuto anche una mail che ci ha scritto un'ascoltatrice che, proprio per risistemare la sua situazione finanziaria, aveva letto qualche pubblicità sull'attività di queste agenzie e quindi voleva informarsi un po' di più. Poi vi leggerò questa mail che è molto breve e da questa magari prenderemo spunto proprio per spiegarvi anche come correttamente un'agenzia di gestione del debito dovrebbe funzionare, quali sono i segnali dai quali dobbiamo invece capire che si assume un comportamento non corretto nei confronti di una persona che già è in difficoltà e quindi non vuole certo aggiungerne di ulteriori. Chi abbiamo questa mattina con noi? Intanto ringrazio e saluto, adesso mi sente regolarmente, dottor Bruno Casali Nuovo, eccoci qua, responsabile del recupero crediti in Profamily. Profamily è la società del credito al consumo, anzi del credito alle famiglie, perché dottor Casali Nuovo ci tiene a precisarlo, del gruppo Banca Popolare di Milano. Gianpaolo Luzzi, presidente dello studio Luzzi Associati, lo abbiamo invitato tante volte, esperto di questi argomenti, ha scritto tanti libri, noi ne abbiamo anche presentati qui a Salva Danaio, tra cui lo ricordo Siamo tutti debitori, come proteggere la nostra famiglia dai debiti e vivere economicamente sereni. Luzzi, buongiorno. Bentornato. Buongiorno Rosciani, buongiorno agli ascoltatori. E poi ringrazio e saluto Pietro Giordano, segretario nazionale della Diconsum. Buongiorno segretario, bentornato. Buongiorno. Proprio ieri avete diramato un comunicato stampa in cui avete sollecitato di nuovo un'attenzione da parte del governo, in particolar modo da parte del ministro degli interni, un'attenzione appunto sull'attività delle agenzie di debito, chiedendo appunto di regolamentarle, di disciplinarle meglio. Poi ci spiegherà perché avete preso questa iniziativa di sollecitazione. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per i vostri interventi in diretta. Lo dico agli ascoltatori, che ci possono anche scrivere al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure ci potete anche scrivere, se volete, sul nostro profilo Facebook. Siamo su il nostro, l'indirizzo del profilo naturalmente, salvadanaio-radio24. Non vorrei perdere più di tanto tempo questa mattina con Nella Borsa, perché vorrei invece esplorare molto bene l'argomento che abbiamo scelto per oggi. Comunque abbiamo una situazione positiva, anche se vedo che già le borse stanno rallentando rispetto ad una mattinata migliore. Milano è arrivata a guadagnare oltre 2 punti, adesso segna più 1,53%, mezzo punto di guadagno per Parigi e Francoforte, Londra più 0,78%. Lasciamo subito la borsa, andiamo al tema di oggi. Vorrei cominciare con Pietro Giordano, Adiconsum, chiedendogli un commento rispetto anche a questi dati forniti ieri dalle Sole 24 Ore. Nel 2011 ammontava a circa 31 miliardi di euro l'indebitamento complessivo delle famiglie italiane, pari all'80% dei 38 miliardi il cui recupero è stato affidato alle agenzie, che hanno in mano 32 milioni di pratiche di crediti da recuperare, una ogni 2 abitanti, con un debito totale che vale ormai quanto il 2,4% del PIL. L'importo medio da saldare per ogni figura quindi sembra apparentemente basso, però magari per qualche famiglia in difficoltà può rappresentare anche una cifra insopportabile: 1.152 euro. A parte le cifre, Giordano, per tanti anni abbiamo raccontato di una condizione italiana di famiglie che riuscivano a tenere sotto controllo il loro tenore di vita, avevano imparato ad indebitarsi, ma facendolo con criterio. Dopodiché abbiamo cominciato invece a raccontare sempre di più di condizioni patologiche. Voi peraltro, come Adiconsum, gestite anche il fondo antiusura, di prevenzione usura anzi, e lo fate per conto del Ministero dell'Economia. Ci traccia un quadro della situazione dal vostro punto di vista? Il quadro è sempre più pesante negli ultimi anni, è giusto quello che si diceva, nel senso che c'è un'escalation dell'indebitamento, anche perché la crisi economica ha colpito anche debiti che si erano contratti prima del 2008 e che sono arrivati a scadenza in questi anni, diciamo, tremendi della crisi economica. È un quadro purtroppo in estrema crescita. È un quadro che colpisce particolarmente, molto significativo, anche l'altro anno Unirec aveva presentato un quadro simile, purtroppo, colpisce non a caso il fatto che ci siano molte utenze domestiche, cioè questo è significativo perché significa che le famiglie italiane lasciano come ultimo pagamento le utenze domestiche perché non arrivano non alla quarta ormai ma alla terza settimana. Utenze domestiche significa luce, telefono, gas, cioè bisogni primari delle famiglie, ma la situazione economica è diventata anche, io aggiungo anche la situazione della tassazione a carico dei cittadini. Sì. Che sono sempre i soliti nodi poi alla fine, e ha raggiunto ormai livelli insopportabili. Io voglio stigmatizzare anche il fatto che più di 8 milioni di italiani vivono al di sotto della soglia di povertà. Questo è molto ma molto significativo, e il trend di cassa integrazione, di licenziamenti e di chiusure delle aziende è un trend in crescita, come ormai anche l'Istat fa rilevare, e quindi meno reddito, perché c'è disoccupazione, perdita di posti di lavoro, ma anche perdita di aziende, meno reddito, meno consumi, siamo tornati a 30 anni fa praticamente sui livelli dei consumi, meno consumi significa meno produzione di beni e servizi, è un cane che si morde la coda, perché meno produzione di beni e servizi significa meno produzione, quindi meno occupazione, chiusura di aziende, una spirale perversa che sta colpendo tanti cittadini e tante famiglie italiane. Aggiungo anche, Giordano, tante famiglie sì. Che magari in passato non erano abituate a vivere in condizioni problematiche, e quando fanno loro malgrado l'incontro con l'agenzia di recupero crediti, vivono anche questa novità in condizioni di difficoltà emotiva ancora maggiore, sì. No? Perché il nostro paese, forse proprio perché non si indebitava tanto in passato, non era abituato a questa nuova condizione. Non era assolutamente abituato, difatti, sia alla questione questioni che riguardano Equitalia, sia le questioni che riguardano appunto la riscossione del credito, dal nostro osservatorio che giustamente diceva è il nostro centro antiusura e sovraindebitamento, abbiamo questo quadro generale. Le persone hanno difficoltà, si vergognano anche quando o arriva la cartella, o arriva la comunicazione di Equitalia, o arriva la comunicazione di un di un'agenzia di riscossione del credito, e scatta un meccanismo psicologico che fa, io non dico che si arriva alla depressione, ma quasi, nel senso che c'è un meccanismo psicologico che scatta, perché gente che si sente giustamente di aver sempre onorato i propri debiti eccetera, magari per una bolletta o due bollette da 150-300 euro vengono poste in una situazione, ma i debiti si devono pagare, non sto dicendo che questa è una motivazione per non pagare i debiti, probabilmente però i balzelli che sopra i debiti contratti si mettono probabilmente hanno raggiunto un livello ormai insopportabile dal nostro osservatorio. Probabilmente è necessaria una revisione, diciamo, di agi e di benefit e di balzelli ulteriori rispetto alla quota capitale del proprio debito. Allora, ha toccato un punto fondamentale. Quando magari si rimane indietro con un paio di bollette, si vive una condizione di difficoltà ma ancora non drammatica, ci sono ancora quelle condizioni per le quali ci si può attivare direttamente per chiedere alla persona, al soggetto verso il quale appunto questi pagamenti non vengono fatti, di o avere un attimo di pazienza o di capire come organizzare in maniera strutturata questa condizione di difficoltà. E qui intervengono, se vogliamo, a volte in maniera proattiva le società di recupero crediti o le debt agency o gli stessi appunto uffici legali che lavorano all'interno delle finanziarie, delle società di credito al consumo, che possono appunto aiutare, ma non tutte lo vogliono, le famiglie a come dire, prevenire una condizione di difficoltà maggiore. Per ripartire con la nostra trasmissione vi propongo subito una testimonianza, che è quella di Vito da Roma. Vito, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Sì. Grazie per avermi dato questo spazio. Allora, io stavo sentendo la trasmissione, allora io ho su 1.700 euro di stipendio, 700 li pago per il mutuo, 300 per la cessione del quinto e altri 300 per un prestito, quindi su un totale di 1.300 euro, quindi con quel poco che rimane facci la spesa, pagaci le bollette, totale rimanente zero. Questa è la mia situazione. Ho una moglie che purtroppo fa la casalinga, anzi fortunatamente ho tre figli, un quarto non arrivo a fine ottobre. Quindi ecco, questa è la mia situazione pressoché debitoria. Certo, ce la fa ancora Vito, oppure come dire, è una condizione sua della quale possiamo parlare, nel senso che uno di questi prestiti lei non riesce a rispettare? Ecco, tanto meno il mutuo, perché sono andata a rivisitare il mutuo e la banca ha detto... Peccato che non riusciamo più a sentirlo. Marco, prova a vedere se riusciamo a recuperarlo, perché a me interessa capire come ha fatto Vito ad ottenere il terzo prestito, perché era già in una condizione reddituale che non gli avrebbe dato, anche se lui aveva bisogno. Poi mi rendo conto che chiaramente una persona va in banca perché è in difficoltà e ha bisogno di questo denaro, però tutto sommato era in una condizione, a giudicare dai parametri, che non gli dava nessun diritto, e passatemi il termine, sì, non l'abbiamo ancora, mi sta dicendo? Si è aperto il microfono. Sì, certo, il suo è aperto. Allora, sì. Vuole intervenire perché sta fremendo. Sì, Bruno, sì, Casalinuovo, responsabile del recupero crediti di Profamily, ve lo ripresento, società del credito al consumo della Popolare di Milano. Perché era così stimolato ad intervenire subito? Grazie. Un saluto innanzitutto a tutti. Ero stimolato a intervenire per condividere qualche considerazione. Abbiamo recuperato Vito, mi fa sentire come è riuscito Vito, perché noi stavamo un po' contestando se vuole, ecco, esatto, no, il tema è capire, visto che lei ha un mutuo già piuttosto pesante per il suo reddito, è capire come le è stato possibile anche ottenere una cessione di un quinto dello stipendio e un altro prestito ancora. Capisco che lei ne avesse bisogno, ma ci sono certi momenti in cui la banca deve dire no. Sì, la cessione del quinto era stata fatta fare all'inizio del mutuo per dare dei soldi avanti al costruttore, dove avremmo dovuto prendere questa famosa casa. Dopo è stato fatto il mutuo, un accollo di mutuo, Quindi oltre alla cessione del quinto è stata fatta anche il mutuo, acceso il mutuo. Certo, e il prestito, il terzo prestito è stato necessario perché era in difficoltà, però la banca gli ha detto sì, o la finanziaria a cui si è rivolto. Lì era, come dire, meglio che le dicessero di no. Mi rendo conto che lei servivano, però proprio per non farla trovare poi strozzata in questo modo. Era meglio che mi dicessi no, ecco, io purtroppo... Però lei dice... Va bene Vito, grazie comunque, non si preoccupi. Grazie a voi. Tenga duro e sentiamo un po' come possiamo... aiutarla meno moralmente. Sì, beh, in questi casi le considerazioni fatte nel corso della telefonata con l'ascoltatore hanno già toccato alcuni punti, no? Quindi Pietro Giordano, che saluto, accennava prima al fenomeno del sovraindebitamento. Chiaramente nella relazione con il cliente, la banca o la finanziaria deve sempre approcciare con una ottica consulenziale, quindi sapere anche consigliare adeguatamente il proprio interlocutore e in qualche caso saper dire anche di no. Certo che ottenere una cessione di un quinto dello stipendio per fare un anticipo per l'acquisto di una casa in costruzione e avere dopo l'ottenimento, io vorrei vedere veramente chi ha seguito questa persona, perché sarebbe da appiccicarla al muro. Posso dirgli, sono un po' arrabbiata, sì, con qualche vedo, suo vedo, collega aggiungo un altro aspetto: la consulenza nei confronti del cliente non si deve fermare al momento dell'erogazione del prestito, al momento del collocamento di un prodotto, al momento della vendita, no? Se vogliamo chiamarla così in termini generali, ma deve proseguire anche durante il corso del rapporto. Quindi nel momento in cui la banca o la finanziaria si rende conto che il cliente ha delle difficoltà oggettive nel rimborsare il prestito, deve colloquiare con lo stesso per trovare in un comune intento di soddisfazione reciproca la soluzione ideale. Lato cliente, mi verrebbe da dire, e mi rifaccio sempre alle parole di prima, di vincere un po' la vergogna, quindi continuare a comunicare col proprio istituto, rappresentando le proprie difficoltà, documentandole, eventualmente anche per vincere, se ci può essere, della diffidenza da parte dell'impiegato del recupero crediti, che magari ha un dubbio, no? Se questa situazione negativa è effettivamente presente nel consumatore, oppure se è un tentativo, no, di procrastinare le scadenze o non onorare il debito. Ecco, oggi non parliamo di clienti che hanno contratto prestiti e non vogliono restituire il credito, parliamo di famiglie in difficoltà. Aggiungerei i furboni che non sono oggetto oggi delle nostre analisi. Quindi ripeto, lato consumatore, collocare col proprio istituto, e lato istituto, offrire sempre un servizio di consulenza al cliente anche in ambito di recupero di gestione. Ma mi dica credito. La verità, dottor Casali Nuovo, voi all'interno dei vostri uffici siete sempre così disponibili e accomodanti? Perché qualche volta noi abbiamo un po' la sensazione di avere a che fare con due mondi, no? Di chi ci racconta che in realtà è molto propenso al dialogo con la propria clientela, proprio perché vuole evitare situazioni patologiche. Noi possibilmente vorremmo che all'interno delle banche uffici come i suoi non ce ne fossero, no? Nel mondo migliore possibile. E poi però troviamo invece testimonianze di persone che quando vanno in banca si sentono chiudere la saracinesca, non riescono neanche ad essere ricevuti e hanno solamente, come dire, atti ingiuntivi che ricevono continuamente a casa con richieste dirompenti di sistemazione della propria condizione debitoria. La ringrazio della domanda e rispondo molto, molto volentieri. Il fattore differenziante con la quale Profemini, che come preannunciava lei è la società di credito al consumo del gruppo Banca Popolare di Milano, è un approccio al cliente come un compagno di viaggio. Spesso è stato da noi dichiarato anche in diverse occasioni, e vuole costituire un soggetto che al passo con i tempi sappia accompagnare il cliente. Questo lo si legge anche nel nostro logo, dove si legge credito genuino. Nessuno forse in ambito bancario ha mai accostato. Quindi voi vi siete dati insomma una filosofia. Ci siamo dati una filosofia un po' diversa. Aggiungo un altro aspetto. I nostri contratti, e Pietro Giordano è in ascolto, possono fregiarsi del bollino di Consum. Quindi anche le associazioni di consumatori l'associazione dei consumatori è stata da noi interpellata proprio nella fase di costruzione del modello contrattuale che il nostro cliente sottoscrive. Lei diceva gli uffici, cioè, tutti vorremmo che gli uffici recupero crediti nelle banche non esistessero. Forse è questo nome, no? Recupero crediti, che io giudico anche ormai un po' superato, che suscita delle accezioni di preoccupazioni. Ripeto, deve essere invece tramutato in una funzione che tutela il credito, nell'interesse di chi ha dato fiducia al consumatore finale. Certo, ma anche e tutela il consumatore, esatto, e tutela il consumatore finale in caso di difficoltà. Concludo, sarò brevissimo. Nel contestualizzare la situazione di crisi, la moderna gestione del credito la si fa anche con strumenti alternativi al classico sollecito, che va bene per ricordare al cliente la scadenza e alle volte lo aiuta anche a non perdere il passo coi pagamenti, ma in situazioni oggettive documentate dal cliente si può anche concedere al cliente una ristrutturazione dell'importo della rata, che forse è quello di cui avrebbe bisogno l'ascoltatore di Roma, esatto, magari consolidare che un accodamento delle scadenze per far fronte a una difficoltà temporanea. Ci pensi poi magari nell'ultima parte di Salvadoraio, certo. Le chiedo come lei gestirebbe un caso problematico come quello di Vito, perché lui ha oggettivamente, arriva anche il quarto figlio, bisogna appunto di essere ascoltato con grande calma e aiutato a mettere a posto questa condizione. Gianpaolo Luzzi, lei come farebbe con Vito? Non ho capito, scusi, no, cosa direi a Vito? Ma intanto che insomma non è obbligatorio comprarsi la casa a tutti i costi, no? La situazione di Vito è una delle classiche situazioni in cui abbiamo convissuto con una convinzione, con una cultura che senza casa non si può stare, ma in realtà si può stare senza casa, si può stare in affitto. Nel caso specifico di Vito io credo che sia urgente per lui che valuti effettivamente se venda casa e che poi contratti naturalmente con la banca che gli ha concesso il mutuo, trattare perché insomma è conveniente per entrambi alla banca incassare subito, anche se a un prezzo un bel po' inferiore a quello che è il nominale del mutuo, e a lui chiaramente una volta che ha venduto eccetera avere la liberatoria della banca e liberarsi definitivamente e poi dopodiché anche del finanziamento che ha in corso, non so quello cosa può fare per la cessione del quinto. Però dicevo una cosa, se mi consenti, certo. Che il 32 milioni di pratiche non sono 32 milioni di debitori, cioè un debitore ogni due abitanti, sono nel caso di Vito credo sia eclatante, indietro col mutuo, quindi una pratica, e indietro col finanziamento personale, due pratiche, sono più che certo che sia indietro anche con non so, l'altro un abbonamento prestito. Del telefono piuttosto che l'acqua, luce, e quindi magari Vito raggruppa su di sé 4, 5, 6 pratiche. Lo dico perché siamo in un clima effettivamente di preoccupazione generale, però ancora non siamo agli scenari argentini, se Dio vuole, a quelli greci, insomma, forse ci arriveremo, ma per il momento insomma. No, per carità, Luzzi non lo dica neanche per scherzo. E quindi ecco, andando di nuovo a Vito, detto questo che abbiamo un po' tutti commentato la sua situazione, gli siamo vicini e speriamo naturalmente che la riesca a sistemare soprattutto per la serenità dei suoi bambini. Nel caso in cui, anche se lui non ce l'ha detto esplicitamente Luzzi, Vito rimanga indietro, Vito lo possiamo chiamare Giovanni, lo possiamo chiamare Francesco, un caso di questo genere, se comincia a rimanere indietro con il mutuo lo chiama la banca, se inizia a rimanere indietro con il prestito lo chiamerà la finanziaria o la stessa banca che gliel'ha erogato. In che fase interviene l'agenzia di recupero crediti, visto che l'abbiamo evocata all'inizio e ancora non abbiamo spiegato come funziona questo soggetto? Normalmente interviene in una fase molto avanzata, quando finché c'è l'agenzia di recupero crediti siamo in una fase bonaria, di recupero bonario, tant'è che provato a spiegarlo spesso nelle mie pubblicazioni, aggredire la società di recupero crediti, avere un atteggiamento ostile nei confronti dell'agenzia di recupero crediti, se è un'agenzia chiaramente professionale e deontologica, insomma se è scritta a Unirec, è proprio sciocco, perché voglio dire, è proprio nella fase bonaria in cui il creditore ha ancora voglia di parlare, per cui l'agenzia interviene alla prima rata impagata fino a un attimo prima di iniziare l'azione legale. e dopo diventa tutto più complicato, perché chiaramente nella fase diciamo bonaria anche i costi sono estremamente mantenuti abbastanza bassi, dipende dal contratto che poi il debitore ha firmato, ma insomma sono ancora costi stragiudiziali e comunque ancora molto trattabili. Quando si parte con le azioni giudiziali, dico, lì ci sono costi sostanzialmente fissi che il creditore deve anticipare e lì diventano dolori di pancia, soprattutto se tutti regimentati in un canale che dalla trattativa è proprio finita. Per cui l'agenzia di recupero e il negoziatore di crediti problematici che suona il campanello o fa squillare il telefono, se è professionale, se si comporta in maniera etica come deve fare, poi peraltro, è una, non dico un amico, perché insomma di amici così se ne potrebbe anche fare a meno, ma prima ancora bisognerebbe fare a meno di non pagare chiaramente il debito, però è una persona con cui si può ancora trattare. Certo, perché per le imprese che attivano ovviamente le agenzie di recupero crediti perché non riescono a vedersi rispettata appunto magari la restituzione di debiti che hanno erogato, hanno tanto poco interesse ad attivare dei contenziosi perché costa anche a loro, per cui è chiaro che hanno tutto invece l'interesse a far sì che la pratica si risolva in maniera tranquilla per tutti. Ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio, poi mettiamo in pista Bruno da Chieti perché la voglio proprio sentire la sua testimonianza, che pare abbia chiesto un finanziamento che non usa ma lo tiene lì come piccolo salvadanaio qualora non avesse la capacità di pagare il mutuo, lui vuole attingere da là, quindi in via preventiva ha chiesto un finanziamento. Bruno da Chieti, mi racconti un po' questa sua decisione che ci suscita un po' di perplessità, se proprio glielo devo dire. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì, questo l'ha suscitato anche mia moglie quando l'ho sarà stata contenta. Cosa, che sarà un po' così, un po' più grave. Però questo più che altro è che stato per assicurarmi di pagare in maniera corretta il mio ultimo anno e mezzo di mutuo. Perché la situazione con la moglie, che non è che sia proprio tanto più brillante, il lavoro che ho io finora fortunatamente è andato bene, va avanti, però cominci già a sentirsi qualche piccola cosetta, no? Magari un ritardo di pagamento dello stipendio di 10 giorni per esempio, non è molto, so che altre hanno di peggio, però quindi lei si è preso questo finanziamento per fare un po' da ponte, no? Se lo stipendio arriva tardi io con però non... Questo mi dura 7 anni, questo finanziamento mi costerà qualche migliaio di euro di interessi purtroppo, poi anche una buona nuova proposta sul mercato in questo momento, devo dire non è male, una parte di questo finanziamento lo spenderò certamente, massimo un terzo insomma. Bruno, senta un po', e allora abbiamo capito quello che ha fatto, mi dica un po', sì. Ma lei questa cosa l'ha fatta da solo o gliel'ha suggerita la banca di fare questa operazione? No, io in banca non mi avvicino per i finanziamenti, vado dalla finanziaria, l'ho fatto io, l'ho fatto quando ho solo terminato di pagare l'ultimo finanziamento che ho fatto sempre con questa società, perché non ne faccio uno, non ne termino un altro, ci ho pensato da solo, ho pensato che fosse la cosa migliore perché insomma... Va bene Bruno, ci saluti tanto sua moglie, speriamo che questo anno e mezzo passi in fretta in modo tale che si toglie di mezzo un po' tutto, perché io comunque in ogni caso, anche se ci hanno raccontato tutto il bello possibile dell'indebitarsi perché ci aiuta a vivere un po' meglio, ci rende un po' più tranquillo il bilancio, se non ce l'abbiamo di debiti a qualunque titolo siamo tutti quanti più contenti, eppure io ho un bel fardello di mutuo sul collo, altro che. Sento un'altra testimonianza, se non ce la faccio, né Ennio da Roma, né Carlo, né Walter, perdonatemi perché voglio far concludere con una battuta ciascuno i miei ospiti, Pietro, Giordano, Adi Consum, ma a Bruno che cosa gli diciamo? Gli diciamo che è una prassi un attimino originale, diciamo originale, così. Ecco. Vabbè. Perché noi diciamo sempre invece che il grande problema del sovraindebitamento, io lo chiamo il fattore chemin de fer, nel senso che poi un po' la prima telefonata. Purtroppo si insegue il piatto a volte, come si fa a chemin de fer, e come si sa, quando si insegue il piatto a chemin de fer si perde sempre. Quindi agli ascoltatori e a chi è in situazioni di forte difficoltà, noi diciamo interrompete sempre il ricorso a ulteriori debiti, perché si finisce inevitabilmente in pasto o a finanziarie prive di scrupoli, non le definirei neanche le finanziarie, così. Ma guardi, qua gli ascoltatori hanno evocato anche le figure dei mediatori del credito, perché nonostante la grande ripulitura della categoria, la grande regolamentazione che c'è stata, ancora qualche soggetto un po' sul mercato problematico circola. Un bel po' di gente ancora diciamo, io li definisco banditi, così ho dato, ecco, il nome. Così abbiamo vabbè, adesso speriamo che non ci faccia ricevere una bella denuncia da parte dei rappresentanti, perché ci sono degli ordini professionali, no, tutti quelli della, io dico, chi si comporta male è un bandito. Questo vale in tutti i settori, e non mi riferisco alle finanziarie. Difatti, come diceva il rappresentante di Profemi, noi abbiamo sottoscritto accordi con sia con finanziarie sia con l'intera, certo, Unile, e monitorate attentamente anche il loro comportamento. Giordano, devo far dire almeno due cose solamente a Luzzi e Casalinuovo. Luzzi, un commento se vuole finale rispetto a tutta la trasmissione, che avrebbe potuto durare all'infinito, però ecco, una raccomandazione finale ai nostri ascoltatori. Si è accennato alle debt agency, sì, siccome io, a proposito dei mediatori creditizi buttati fuori dalla porta, sono rientrati dalla finestra sotto forma di debt agency, e un consiglio proprio per gli acquisti: non rivolgetevi a una debt agency che vi chiede soldi prima. La debt agency, ammesso che ne esistano effettivamente in Italia, e io ne dubito, vanno pagate dopo che il problema è stato risolto. Quando si è liberati da tutti i debiti, poi dopo si paga. Pagare prima è un truffatore col marchio DOC. Benissimo. Per cui denunciatelo in Procura della Repubblica. Benissimo, grazie Luzzi. Affronteremo dettagliatamente questo tema con una puntata specifica, così magari saremo ancora più forti su questo messaggio. 5 secondi a Casalinuovo, non posso darle di più. Per concludere con il suo messaggio? Mi rifarei alla descrizione di Luzzi sull'intervento delle società di recupero crediti. La società di recupero crediti che contatta il debitore deve trovare un debitore disponibile al colloquio. Non rispondere al sollecito, non rispondere alle telefonate, evitare il contatto con il negoziatore del credito, non risolve. Peggiora non la risolve situazione, ci fa finire in una spirale. Finché c'è volontà di sollecito, c'è volontà di di risolvere. E poi mi viene anche, come dire, da sorridere con quest'ultimo messaggio. Devo andare subito con la pillola LIMS, non riesco a fare l'ultimo messaggio. Oggi ancora sulla riforma delle pensioni, le donne, il calcolo dell'assegno per le lavoratrici. Ecco la pillola di oggi. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. La riforma ha confermato la possibilità per le donne di andare in pensione a 57 o 58 anni, prevedendo il calcolo dell'assegno interamente con il sistema contributivo. È vero? Sì. La riforma ha confermato fino a tutto il 2015 la regola già vigente secondo la quale le lavoratrici che avevano cominciato l'attività prima del 31 dicembre 1995 possono andare in pensione a 57 anni se dipendenti e a 58 se autonome. Questo è possibile però a condizione che accettino che tutta la loro pensione sia calcolata con il metodo cosiddetto contributivo, basato sui contributi versati e non sulla media delle ultime retribuzioni, come accadeva con il metodo retributivo. Sono in ritardissimo, grazie a Bruno Casalinuovo, a Giampaolo Luzzi, a Pietro Giordano per essere stati con noi. Ritorneremo di nuovo su questi argomenti, ve lo prometto. Intanto a tutti buona giornata, a domani. Salva Danaio.